Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sperimentata all'ospedale Bambino Gesù di Roma, una terapia in grado di contrastare gli effetti collaterali infiammatori e potenzialmente letali della terapia CAR-T, che viene utilizzata per il trattamento dei tumori del sangue. A Obiettivo Salute il commento della dottoressa Gabriella Bottari della terapia intensiva pediatrica Area Rossa del Bambino Gesù di Roma, primo autore della pubblicazione scientifica che si occupa del tema di cui trattiamo oggi. Dottoressa Bottari, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Dottoressa Bottari, in che cosa consiste la terapia? Si tratta di fatto di una terapia di depurazione extracorporea basata sull'emoperfusione del sangue e quindi la depurazione da mediatori dell'infiammazione. È un trattamento che già esiste, di fatto l'innovazione è stata applicarla in questo ambito, ovvero una delle potenziali e anche letali complicanze che si assiste dopo l'infusione di CAR-T nei pazienti, che è la sindrome da rilascio citochimico, ovvero un'infiammazione generalizzata che può danneggiare gli organi e apparati. Andando a purificare il sangue con una tecnica di combinata emodialisi ed emoperfusione con colonne di assorbimento, siamo riusciti a gestire questa complicanza e a farla superare al paziente. Di fatto, attraverso questa tecnica depurativa e di supporto siamo riusciti a annullare questa importantissima infiammazione del paziente e quindi a ridurre gli effetti collaterali correlati. Dottoressa Bottari, quali prospettive apre l'applicazione di questa terapia nel trattamento con le CAR-T? Di fatto noi abbiamo pubblicato il primo caso clinico. A questo punto, sicuramente vista l'efficacia del trattamento, inizieremo in una popolazione più ampia di pazienti ad applicare, quando ci sia necessità, questo tipo di trattamento, cercando di descrivere quindi su una casistica più ampia e confermare il risultato. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta Facebook insieme a Raffaele Morelli. A tra poco, una buona giornata da Nicoletta.